Libro terzo. Lucifero al Building 1. Il Frank lo vidi un lunedì mattina. Se ne stava davanti al tornello con le mani ficcate nelle tasche di un giubbotto Caterpillar verde militare. Mi chiese di sbloccare il tornello con il mio badge, perché lui ancora non ne possedeva uno. Era il suo debutto in azienda e glielo avrebbero dato in mattinata all'ufficio personale. Mi si rivolse proprio con questa espressione. Oggi debutto. Non provai nessuna pietà, nessuna invidia. Non mi sentii in dovere di rispondere con una frase da vecchio operaio pacificato. Nessuna battuta simpatica e scontata su quel triste esordio nel mondo del lavoro. Nessun commento sul clima, né sui risultati del campionato di calcio. Feci un cenno con il capo che poteva dire tutto e non diceva un cazzo. Passai il badge e lo feci passare davanti a me. Mi ficcai le mani in tasca fino quasi a rompere la stoffa dei jeans. Non era questione di freddo. La primavera, nonostante tutto, iniziava a mitigare. Marzo faceva il suo lavoro. Ero pieno di tic nervosi. Il silenzio non mi imbarazzava più da tempo. Rallentai il passo. Non volevo affiancare l'ultimo arrivato. Non volevo condividere banalità da lunedì mattina. Mi sembrava strano che potessero ancora esistere cuccioli di operai in Occidente. La televisione non ne parla mai. Non parla mai di questi cimiteri. Nemmeno gli scioperi nazionali arrivano a intaccare la prima metà di qualunque telegiornale. I controllori di volo creano disagio, bivacchi di turisti indignati, prede facili per giornalisti eccitati. Qualche decina di operai con le bandiere rosse che stazionano sui binari di una ferrovia mettono solo addosso una tristezza antica. Ti viene da spegnere la televisione. A scendere in piazza per rivendicare meriti e diritti sono sparute frange organizzate dalle confederazioni nazionali e chi davvero non ha nulla, e quindi nulla da perdere. Il ragazzo col giubbotto verde stava entrando dalla porta dello stabilimento per avviarsi verso l'ufficio personale, affiancato da un'altra neoassunta, una quarantenne dai capelli castani e la pelle chiara. Non sembrava affatto intimidito, lo sguardo era alto e fiero. Aveva un bel po' di vita davanti, una fidanzata fresca, un'utilitaria col motore sovralimentato. Il suo organismo recuperava bene gli eccessi del fine settimana. Come potevo non odiarlo? Quella mattina mi sentivo in perfetta armonia produttiva, anche se avevo sognato tutta la notte la catena di montaggio. Nessuna distorsione della realtà, nessuna variazione. In genere di notte sogno le azioni che compio regolarmente di giorno. Non ne esco mai. Curioso. Quando la realtà è un incubo, i sogni non si concedono nessuna caricatura, si limitano a registrare. Lavoravo in vantaggio, alimentando gli scivoli che convergono nelle stazioni di assemblaggio senza difficoltà. Mi concedevo battute e fissavo per qualche secondo i culi passabili. Una femmina aveva preso a urlare. La pistola dell'avvitatore non funzionava. Prontamente gli avevo chiesto se voleva quella che tengo in mezzo alle gambe. Sono frasi automatiche, fuori da ogni libero arbitrio. Recito. È una recita infinita. Faccio di tutto per integrarmi, per regredire a scimmia. Quando non ci riesco vivo male. Quando ci riesco mi odio. Mi dico che recito troppo bene. Che sono davvero diventato ciò che disprezzo. Quando la presa di coscienza si riaffaccia, cambia l'espressione del mio volto e divento più vulnerabile. Un'altra donna ululava frasi sconnesse, storpiava i ritornelli delle canzoni vomitate dalla radio, modificando i testi. Erano grida strazianti, mi ricordavano la casa di riposo comunale dove andavo a trovare mia nonna. In momenti come questi, alcune operaie ridono, altre tacciono, abbassano la testa, non assecondano queste esibizioni di follia, reagiscono nascondendosi. Nessuna si ribella con forza per porre fine a quell'ostentazione di beata demenza. Non le perdonerò mai per questa rassegnazione. Verso le 9:30. Vidi aggirarsi in reparto il ragazzo, accompagnato dalla Ghedini e da Marani in persona. Sembrava un tipo sveglio. Concedeva moderata confidenza alle comari più curiose che cercavano di intervistarlo. Come avesse intuito quanto fossero pericolose, sapeva come tenersene alla larga, senza essere troppo scortese. Sembrava quasi normale, un individuo sopra la media. La sua presenza mi sembrò subito una circostanza strana. Oggi un diploma di laurea non lo si nega a nessuno. Lavoravo come sempre come la più disperata delle bestie, con la rabbia inoffensiva di sempre. Armeggiai con i tasti dell'MP3. Appena Marani si allontanò, Il tipo smise di seguire le parole della Ghedini e mi chiese cosa stavo ascoltando. Roba che scarico da internet. Niente radio? A volte Radio 3, solo Rai. Prova Virgin Radio, non è male, solo rock, anche roba dei tuoi tempi. Quali tempi? Comunque le radio private fanno solo merda. Prova la Virgin, sui 106. Comunque non si può lavorare con le cuffiette. È una norma dell'antinfortunistica. Se ti isoli dall'ambiente, puoi finire sotto un muletto. E tu? Nessuno può rompermi il cazzo. Sono in stafogna da 20 anni. Si vede. Cosa? Che hai il cervello bruciato. Cercai di guardarlo senza tradire rabbia, ma l'affronto mi accese di sicuro il volto. Cercai di fare la parte dell'uomo saldo, pieno di testosterone, che non perde la calma per le offese del primo ritardato con i jeans a vita bassa. Nessuno mi dice nulla delle cuffiette perché mi compatiscono, faccio pietà e vorrei incutere timore. Tutti sanno di come mi hanno impietosamente silurato, dell'umiliazione quotidiana. Nessun capetto al momento mi ha negato l'MP3, condizione necessaria alla sopravvivenza. Oppure non mi considerano e nemmeno se ne sono accorti. Comunque non potrei ascoltare le idiozie delle operaie. Non sopporto quando raccontano episodi della vita dei figli in età prepuberale, la più stupida e infelice. La maggior parte dei mocciosi frequenta scuole di calcio. Ti insegnano subito a simulare falli per guadagnare rigori e punizioni. Gli istruttori sono esaltati che pensano di essere dentro Full Metal Jacket. La loro severità, le offese urlate, imbarazzano i genitori che seguono l'allenamento ai bordi del campo. Considerano quell'assurdità una buona palestra di vita. Nessun marmocchio arriverà a livelli professionistici nel calcio, bruciandosi le possibilità per altri sport. Sono cuccioli di abbonati a Sky al digitale terrestre. Le madri vogliono che il loro figlio incuta rispetto all'interno del branco. Non si scusò e non disse altro. Non continuò la belligeranza. Non sembrava orgoglioso della sua prova di forza. Pensai avesse assaggiato la reazione del primo avversario che gli era capitato davanti. Così, tanto per capire l'ambiente. Iniziò un addestramento al carrello elevatore con un ragazzo del magazzino. La Morelli, in veste di spia ufficiale di reparto e conoscente dei nonni paterni, mi avvicinò e si prese l'onere di raccontarmi la sua storia. Il Frank stava frequentando un istituto professionale con buoni risultati. Una notte era entrato nell'edificio in compagnia di due amici carichi di insufficienze per bruciare i registri e altro materiale didattico. Un evergreen per balordi di ogni generazione, consumato l'ultima notte dell'anno. Le piccole teste di cazzo avevano pensato di essere originali. Il fumo, uscito dai finestroni, aveva attirato una pattuglia di carabinieri. Non aspettavano di meglio che stanare tre idioti nascosti nei cessi della palestra della scuola a Capodanno. La famiglia aveva ritirato il Frank dalla scuola per ficcarlo nella fabbricazza. Tolleranza zero per il rampollo di una famiglia che dall'inizio del secolo imperversava con farmacisti, avvocati, assessori, architetti. Ricordai di aver letto qualcosa sui giornali. Nessuno dei tre teppisti si era intimorito davanti al magistrato, né aveva simulato pentimenti. Sogghignavano nervosamente, sotto l'effetto di pasticche, aventi come logo il viso storpiato di un Joker. Indossavano felpe con il cappuccio e lo stesso simbolo stampato. Alla banda del Joker, come si erano autodefiniti, erano stati attribuiti altri episodi di vandalismo in paesi vicini. Il Frank aveva l'aria di uno fortunato con le femmine. Nessuna pratica sportiva, una magrezza malata gli consentiva di indossare qualunque indumento con immeritata eleganza. Non aveva bisogno di alcun addestramento. Dopo poche decine di minuti guidava il muletto come non avesse mai fatto altro. Il suo angelo custode lo guardava dall'area della macchinetta del caffè, divertito e preoccupato. Divertito per un paio di testa coda del nuovo pilota. Preoccupato per essersi reso conto di quanto fosse facilmente sostituibile nella professionalità. Magazzinieri e mulettisti sono merce deprezzata. Mansioni affidate ad agenzie interinali che gestiscono africani e gente dell'est per due soldi. Anche le donne sono state addestrate a questa mansione. Dopo le prime perplessità, tutto è filato liscio. In Giappone sono in corso sperimentazioni analoghe con delle scimmie. Io sono peggiore di extracomunitari, donne, scimmie e di questo giovane teppista. Ho sempre rifiutato di guidare carrelli elevatori. Le scimmie hanno raggiunto risultati sbalorditivi con test mnemonici legati alla matematica. Perché dovrebbero avere problemi alla guida di un carrello elevatore? In questo reparto siamo tutti operai massa senza speranza. Non occorrono qualità che ti renderebbero autonomo e competitivo in altri luoghi di lavoro. Nessuna manualità particolare è necessaria. Tutto assemblaggio regolato da rigidi standard work. Lo standard work si era reso necessario nelle fabbriche durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli uomini andavano al fronte e il loro posto era preso da donne e ragazzi. Nei reparti erano affisse procedure di lavorazione molto chiare e sintetiche. La nostra fabbrica ha fama di essere troppo tenera con i suoi cuccioli nati ciechi, una specie di ente benefico con mollezze e tempi statali. Nella cittadella siamo trattati con disprezzo, additati come privilegiati e scansafatiche. Se l'ente benefico, vittima di una recessione assassina, dovesse sprofondare sulle sue fondamenta, sarebbe una tragedia inenarrabile. I più intraprendenti si costituirebbero in bande di ladroni armati, dedite al saccheggio e all'accattonaggio regolato da racket. I cuccioli impreparati a gestire l'emergenza sceglierebbero la via più sicura del suicidio. Soprattutto gli impiegati cederebbero a questa lusinga. Nei momenti di rallentamento produttivo, molti digitano le parole suicidio e indolore nei motori di ricerca per essere pronti nel giorno della disfatta. Il suicidio rimane l'ammortizzatore sociale più sicuro, come lascia intendere tra le righe il metodo Toyota e tutta la storia del Giappone. Ciao a tutti, ho dei problemi che mi portano a pensare al suicidio come soluzione degli stessi. Però da una parte c'è la mancanza di coraggio, dall'altra l'ignoranza sui metodi. Potete indicarmi qualche sito che non sia in inglese dove si parli di metodi possibilmente indolori di suicidio? Pensavo a qualche sostanza liquida tossica che agisca in fretta o qualche altra cosa simile. Grazie. Prego. Con il Frank mi fu subito chiaro il problema. Non potevo giocare all'operaio che rivendica la propria anzianità aziendale come valore assoluto degno di rispetto. Inutile inventare filastrocche su come tutto una volta era meglio, i vecchi tempi eroici di chissà quale cazzo di eroismo. Suonerebbero stonate, come gente nata nel mezzo degli anni Ottanta. In queste generazioni non ci sono residui di etica politica a presiedere azioni e pensieri. Sono tutti fascisti naturali, nessuna dottrina ha corrotto l'istintività. Sono mostriciattoli anestetizzati e iperattivi al tempo stesso. I genitori sono miei coetanei. La mia generazione mi fa vomitare. Potevano figliare solo mostri. Anche se la tolleranza zero con la quale avevano reagito alle scorribande del figlio deponeva a favore dei genitori del Frank. Un rigore antico l'ha imprigionato nelle segrete di questa fabbrica. Marcirà in questa fogna. Martedì la situazione era già fuori controllo. Le operaie più carine sembravano deturpate dall'ora di straordinario imposta dalla direzione. Si inizia alle 6 del mattino e il turno si protrae fino alle 14. Due pause di 10 minuti alle 8:30 e alle 11. Tra ogni sosta, una pausa individuale per i bisogni fisiologici, durante la quale il facilitatore sostituisce l'operatore. Il rosario di 20 operaie non può interrompersi a ogni pisciata. Le ragazze hanno i visi scavati, occhi spenti e la testa in disordine, mollette ovunque, cercano di arrivare a venerdì prima di lavare i capelli per non sfibrarli. Fuori hanno figli prede di malanni infettivi a ripetizione, lavori domestici che consumano. Nelle cene aziendali alcune sono irriconoscibili, metamorfosi miracolose, trucco e parrucchiera, vestiti che finalmente esaltano le doti fisiche. Io invece non ho speranza. Nessun restyling può giungere in soccorso e le riserve di eroina si stanno esaurendo in fretta. Quelli come il Frank prendono sostanze stimolanti e solo nel fine settimana. Quelli nati dopo l'85. Martedì nel ventre della catena di montaggio le donne erano agitate. La Ghedini aveva annunciato la visita di un fornitore esterno. In questi casi il protocollo prevede che inforchino gli occhiali antinfortunistica previsti dalla legge e che si irrigidiscano nei movimenti. Le visite di esseri umani esterni sono momenti decisamente umilianti. Aspetto davvero che inizino a tirarci frutta secca e zuccherini. Per me lo sono in modo particolare. Capita che alcuni fornitori che avevano interagito con me quando militavo nelle fila del controllo qualità mi vedessero relegato a bestia da rifornimento linee. Avevano pietà di me, più di quanta potessero averne gli indigeni. In queste circostanze sento sulla pelle il loro imbarazzo. Non sanno se salutarmi o ignorarmi. Ogni mossa da parte loro sarebbe sbagliata. Preferiscono far finta di non riconoscermi. Fingono di interessarsi a dettagli inutili. Io tengo gli occhi altrove. Una delegazione di tedeschi transitò in processione ordinata. Una donna grassa, dai modi cortesi, straripava da un tailleur metallizzato. Altri fantocci annuivano come azionati elettricamente. A illustrare i processi produttivi era Finetti, assurto a carica prestigiosa nonostante palesi demeriti storicamente riconosciuti. Era stato tra i peggiori elementi del peggior reparto, il magazzino. Poi era arrivato al mio ente, il controllo qualità, dove si era contraddistinto per l'uso indiscriminato dell'intercalare a scapito di. I suoi responsabili, pur di toglierselo dalle scatole, avevano accettato che il suo spostamento si dirigesse verso la parte alta dell'organigramma aziendale. Lo so, state pensando che la furbizia è comunque una branca dell'intelligenza, la più detestabile, perché tutto va a scapito di.